Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti al notiziario anticlericale. Ricordiamo il sito www.giordanobrunomi.wordpress.com. Per il calendario anticlericale 2024, info@siciliolibertaria.it. Il libro della settimana del 1923 di Pietro Cossa, I Borgia, dramma storico. Interpreti, Papa Alessandro VI Borgia, Vannozza Cattani la sua amante, Cesare Borgia suo figlio, il Duca di Gandia un altro figlio, Lucrezia Borgia l'altra figlia, eccetera, eccetera. Dal Sole 24 Ore del 18 agosto, immobili vaticani, utili in crescita. Nel 2022 il patrimonio immobiliare vaticano ha reso 52 milioni di euro, quello mobiliare invece meno 7 milioni, gestite in Italia 4.072 unità e versati in forma diretta e indiretta all'erario 6 milioni per l'IMU e 2,91 milioni per IRES. Ma sarà, vedremo. Da retelabuso.org del 6 agosto 2023, manichini bambino davanti al Duomo di Colonia, stop abusi nella chiesa. Anche i pedofili tedeschi, insomma, sono sotto tiro. Dal rete l'abuso del 7 agosto. Ai media cattolici il 36% dei 72 milioni di fondi per il pluralismo informativo. Doping religioso sulla stampa, il dossier dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. Un gruppo statunitense accusa i vescovi messicani di coprire preti implicati in abusi sessuali, sempre da rete l'abuso 28 luglio. La diocesi cattolica di Syracuse negli Stati Uniti pagherà 100 milioni di dollari alle vittime di abusi sessuali, lunedì 28 luglio. Trans nuda si lancia dalla finestra del prete, l'estate folle del parroco tra sesso, droga e alcol, Desenzano, una trans che vola dalla finestra del sacerdote della diocesi di Verona. Scandali clericali. Civitavecchia, rinvio a giudizio per il prete Don Ivan Leto, accusato di diffamazione. Il tribunale di Civitavecchia ha rinviato a giudizio Don Ivan Leto, parroco all'epoca dei fatti di San Giordano Minore, paese lì toscano, no, cioè laziale, con l'accusa di diffamazione. Sempre rete l'abuso, abusò sessualmente di 72 bambini. Ex prete australiano condannato a 40 anni di carcere, 16 agosto 2023, in rete l'abuso. Ex sacerdote australiano condannato per aver abusato sessualmente di bambini si è visto aggiungere altri 12 mesi alla sua condanna già fissata a 39 anni di carcere. Educatore 52enne di Comunione e Liberazione arrestato per violenza sessuale su una ragazza di 14 anni. Abusi anche durante un ritiro spirituale, i famosi ritiri spirituali. 19 agosto 2023, rete l'abuso. Veniamo alle vignette e alle notizie anticlericali del Vernacoliere, agosto 2023. Moria di vescovi. È un vescovo indiano allontanato definitivamente dal suo incarico da Papa Francesco per aver stuprato una suora indiana e altri misfatti. Quindi leggere sempre il Vernacoliere, dove ci sono utili notizie per noi. Era un sacerdote esorcista, è diventato famoso per una sola interpretazione, ma era davvero un prete non proprio integerrimo. Abusava sessualmente di alcuni suoi studenti. Gesuita deceduto da qualche tempo. Allora, da cronaca vera dell'8 agosto 2023. Papà e nonna fanno esorcismi su bimbo di 9 anni. È indemoniato. 1 agosto 2023. I due sono indagati e all'uomo è stata tolta la custodia del figlio, ma negano. Esorcismi e riti esoterici per liberarlo dal demonio. Vittima dei rituali cattolici, un bambino di appena 9 anni. A praticarli sarebbero stati i genitori, i due fanatici religiosi. Rete l'abuso del 7 agosto. Papa Francesco incontra le vittime di abusi sessuali del clero in Portogallo. Il Tribunale Civitavecchia ha rinviato a giudizio Don Ivan Leto, che l'abbiamo già letto prima. Poi dal bollettino della comunità ebraica di Milano, dopo la Shoah, i bambini ebrei mai restituiti, il caso Finali e il caso Nusha, conventi, scuole, battesimi forzati, una storia infame che non finisce. Due casi esemplari. Poi, dal Fatto Quotidiano del 19 agosto, i preti di Colonia e i 1000 accessi a siti pornografici. A Colonia, membri del clero e altri dipendenti della diocesi sarebbero stati responsabili di tentativi massicci di accedere a siti porno dal computer, appunto, della diocesi, con oltre 1000 tentativi di accesso. Stati Uniti, troppe cause per abusi. La diocesi di San Francisco dichiara bancarotta. 22 agosto, la diocesi cattolica di San Francisco in California ha presentato ieri istanza di bancarotta, vista l'impossibilità di gestire gli oneri determinati dalle oltre 500 accuse giudiziarie per abusi sessuali. Ritorniamo al bollettino della comunità ebraica di Milano, scintille, letture e riletture. San Simonino da Trento, un nuovo libro fa luce sul processo farsa che scatenò un'ondata di violenza antisemita in tutta la penisola di Ugo Volli. E questi poveri ebrei di Trento ebbero a subire gravissimi abusi per questa totale invenzione che avrebbero seviziato questo bambino cristiano. Una delle vicende criminali più sordide dell'antigiudaismo cattolico del Sud Tirolo e dell'Italia del Nord. Il processo per omicidio rituale del piccolo Simonino, bambino cattolico trovato morto nella cantina di un ebreo. Siamo nel 1475. Gli ebrei della comunità ebraica di Trento vengono tutti arrestati, uomini e donne, e torturati e condannati a morte. Incinta prima delle nozze, professoressa cacciata dalla scuola. New Jersey, violato il bigotto codice etico di questo istituto. Da Il Giorno del 18 agosto 2023. Addio a Riccardo Laganà, consigliere Rai Gentiluomo, stroncato da un infarto a soli 48 anni. Qui c'è Gatta Cicova, in questa morte sospetta. Ricordiamo come Mussolini è stato implicato in vari avvelenamenti. Dal Corriere della Sera di sabato 19 agosto. Memoria, anche Sergio Mattarella, il presidente dei Vescovi, ricorderanno Don Minzoni, sacerdote ferrarese ucciso dai fascisti. La stampa cattolica indicò il carattere politico del delitto, ma non andò oltre, per rispetto dei fascisti. Poi il Corriere della Sera sui misfatti dei laici cattolici, 11 agosto 2023, l'ultima del Conte Nero, tenta di uccidere un artista di strada, Roma. Arrestato Ranieri Adami Piccolomidi, discendente del Papa Pio II. Sabato scorso aveva pure minacciato militari, circolava con una pistola carica, tentato omicidio, arrestato, eccetera, eccetera. Poi, sempre la Rete L'Abuso ci avvisa che nasce Rete L'Abuso Podcast, la controinformazione e gli approfondimenti del TG News della Rete L'Abuso, 16 agosto 2023. Poi, sul quindicinale Valcamonica del 4 agosto 23, si ricorda il centenario del disastro della diga che crollò uccidendo 300 persone lì vicino alla Valcamonica. Il parroco fu complice, nel senso che disse: il grande bacino è terminato, non temete, par che dica, vi proteggo io, state tranquilli e sicuri. Invece sono morti anche alcuni parroci e alcune chiese sono state distrutte dall'alluvione provocata dal crollo della diga. Sui fondi sono ebrea e caos. Dalla prealpina dell'8 agosto si parla della giunta di destra e dell'assessora Bertini, scatenano l'ira dell'opposizione, un esempio di razzismo bigotto filoclericale. Cattolicesimo macabro, da Il Giorno 11 agosto 2023, la reliquia del cuore di Padre Pio esposta a settembre. Andiamo avanti, questo numero non parliamo delle disgrazie anticlericali che sono troppe e le rimandiamo a settimana prossima. Allora, spazio alle sparate anticlericali di Papa Francesco dall'Osservatore Romano del 7 agosto, abbandonare mondanità e clericalismo contro il formalismo ipocrita dei preti, attacca mondanità e clericalismo, no ai chierici di Stato, insomma una lunga tirata che Papa Francesco fa finta o fa veramente contro il certo tipo di clericalismo. Sono cose che ho ricordato altre volte, infatti non è la prima volta che lui attacca il clero. Il clericalismo è sintomo di una vita sacerdotale, laicale, di un certo tipo che non gli va bene. Restiamo dunque vigilanti contro il clericalismo. Il clericalismo però può riguardare tutti, anche i laici. Ah, davvero. E non bisogna essere boriosi, arroganti, eccetera, eccetera. Insomma, non per caso l'Osservatore Romano non si può più leggere online, ma bisogna comprarselo o, per chi è a Milano, leggerlo alla Biblioteca Sormani gratis. Sopravvissuti, testo di Giuseppe Miccoli per Rete L'Abuso. Il pezzo musicale donato dall'autore Giuseppe Miccoli alla Rete L'Abuso è stato prodotto e arrangiato da vari collaboratori. Rete L'Abuso, 14 agosto 2023. Il Gazzettino.it ci ricorda che un frate cappuccino di Rovigo circuisce l'anziana e si fa nominare erede unico, sequestrati 460.000 euro sui conti correnti del frate. Poi altre notizie anticlericali dal Fatto Quotidiano, Daniele Luttazzi, il trucco con le donne. La lettura della Bibbia. Leggi mai la Bibbia? Solo le parti pornografiche. Il resto non mi sembra credibile. Alcuni teologi sostengono che Dio potrebbe essere donna. Sostenere che Dio potrebbe essere donna è solo un trucco retorico per distrarre dal fatto che Dio non esiste. E insomma, ottimo. Perché Francesco mette il guinzaglio all'Opus Dei? E perché è espressione del più vieto clericalismo, e quindi per essere coerente con le sue sparate anticlericali non può che prendersela con l'Opus Dei. Fatto Quotidiano del 19 agosto 2023. Sempre dal bollettino della comunità ebraica di Milano si parla del caso Mortara, il libro e il film, eh? Quindi mi raccomando, chi non conosce bene questa tristissima vicenda della storia della Chiesa, di cercare in giro, tra poco uscirà anche il DVD. Poi andiamo avanti. Il caso Mortara e le contraddizioni della Chiesa, sempre dal bollettino della comunità ebraica di Milano. Cari amici, sono contento che Bellocchi abbia fatto il film sul bimbo Mortara, ma io non andrò a vederlo perché mi sentirei troppo agitata, irritata e arrabbiata. Perché così sono stata battezzata, ma ci sono molte cose che non accetto del cristianesimo. Nulla di quello che ha detto Gesù è stato rispettato, eccetera, eccetera. Va bene, siamo già a 13 minuti. L'ultima notizia: Papa Francesco taglia l'Opus Dei, è come gli altri, ma tiene la prelatura. Fatto Quotidiano del 15 agosto 2023. Benissimo, arrivederci alla prossima puntata. Viva l'Italia il popolo, e Papa che va via, e Papa che va via. Addio, sacra corona.